De Magistris, qui l'opposizione, il segretario del Partito Democratico, di fronte a quello che sta succedendo nel centrodestra, dice dobbiamo fare una sorta di fronte repubblicano contro la maggioranza. Ma insomma, che vuol dire? Io non l'ho capito bene. Me lo sa spiegare lei? Lei l'ha capito? Evidentemente pensa, non so, io posso dire quello che penso Eh io, sì, ma interpreti, cerchiamo di vediamo se interpretare. coincide con, vediamo se coincide con quello che pensa Bersani. Io penso che con Fini si può dialogare per le riforme istituzionali e quelle generali, cosa che non si può fare invece con Berlusconi che vuole stravolgere la Costituzione. Ma se pensiamo a un'alternativa politica di governo, io penso che con Fini non si può fare nessuna alternativa politica, né è pensabile un governo di tipo tecnico. Ecco, Se per esempio, Fini uno dice dei consiglieri di Fini, il professor Campi, ieri su Repubblica ha detto: beh, insomma, si potrebbe pensare a un governo tecnico proprio di emergenza per cambiare la legge elettorale. Lei che dice? no, non sono d'accordo. Se Fini pensa che l'esperienza del PDL è conclusa, come pare emergere nelle ultime ore, si deve assumere la responsabilità politica, uscire dal PDL e si va a votare, e noi siamo pronti per costruire un'alternativa politica, ma l'alternativa politica non comprende Fini per quanto mi riguarda. Senta, per cui lei è d'accordo con quello che dice la Lega, cioè se Fini esce dal PDL si deve andare a votare. Ma non c'è dubbio. Eh beh, insomma, questa è una posizione interessante. 30 secondi, torniamo subito, resti lì. La zanzara. Ed eccoci qui in collegamento con Luigi De Magistris, europarlamentare dell'Italia dei Valori. Su questo, De Magistris, bisogna dire, lei e Di Pietro avete la stessa posizione, cioè se si dovesse arrivare ad una crisi, diciamo, nel centrodestra, ad una crisi forte. Lei ci crede a questa crisi? Fini pare abbia fatto, non dico un passo indietro, però tentenna un po'. Lei ci crede a questa crisi? Mi dica la Non ci verità. credo tanto, cioè, ritengo che Fini abbia delle posizioni istituzionalmente corrette, a differenza di Berlusconi che vuole un disegno autoritario, ma non credo alla crisi né credo che Fini voglia veramente uscire dal Cioè, PDL. secondo Insomma, lei Fini non ci fino adesso. sarà, nella rottura vera non ci sarà. Ma Fini fino adesso, noi dobbiamo vedere che in politica contano le azioni concrete. Fino Sì. adesso Fini e i cosiddetti finiani hanno approvato tutte le leggi proposte da Berlusconi e anche dalla Lega. Quindi vediamo se cambia qualcosa. Fino adesso non mi pare granché da questo punto di vista. Comunque, insomma, lei dice che se si dovesse arrivare ad una situazione così, ci sono solo le elezioni. Ma perché, per esempio, Bersani, il Partito Democratico, i leader del Partito Democratico non lo dicono esplicitamente? Invece, cioè, sembra esserci, l'ho detto anche Vendola ieri, una sorta di terrore per le elezioni. Ma perché la classe dirigente del Partito Democratico sta un po' in difficoltà. Il discorso secondo me si deve andare per forza a votare perché la gente, il popolo votò PDL che era l'insieme tra Fini e Berlusconi. Se Fini esce dal PDL penso sia corretto andare a votare, anche se i numeri probabilmente potrebbero consentire a Berlusconi e alla Lega di governare lo stesso, perché mi pare di capire che molti ex AN sono passati già con Berlusconi, quindi Fini ha poche persone, poi tutto sommato insieme a lui. Qualcuno dice che se li compra i parlamentari, c'è cioè questa accusa, secondo lei è vera questa accusa? Abituato a comprare un po' tutto, giudici, fa l'utilizzatore finale.